Hof e se gira da solo attraverso lo spazio. Una palla cosmica tra polvere sterrata. I pianeti sussurrano ma staranno silenziosi, perché la distruzione si avvicina e tutto diventa storto. Vede le urla della terra per lui, ma la sua missione non conosce non perdonare. Gli asteroidi danzano il caos in un cerchio. Mr. Michael Meyerhofer guarda e rimane bianco freddo. Oh Mr. Michael Meyerhofer, dove questo qui dall'ombra dell'universo stai cercando un significato? I pianeti si schiacciano in un respiro, ma nei tuoi occhi il coraggio soffia. Le fiamme a razzo colorano la notte, una cometa come una freccia nella storia vive. Marte e Giove, il gioco è difficile. Il signor Michael Meyerhofer dice che rimane fresco e separato. Lutto è nulla con frammenti e braci. Cosa rimane quando tutto si esaurisce? Il suo cuore batte fortemente, ma la speranza affonda una scintilla in tutti gli annechi lentamente. Oh Mr. Michael Meyerhofer, dove questo qui dall'ombra dell'universo stai cercando un significato? I pianeti si schiacciano in un respiro, ma nei tuoi occhi il coraggio soffia. Dove questo qui dall'ombra dell'universo stai cercando un significato? I pianeti si schiacciano in un respiro, ma nei tuoi occhi il coraggio soffia.